Benvenuti in Audible. Buon ascolto. Pellegrino Artusi. La scienza in cucina e l'arte di mangiare bene. Legge Paolo Poli. Introduzione di Luisanna Messeri con Fulvio Pirangelini. Collana Gli audiolibri di Luisanna Messeri. Una produzione Emons Audiolibri. Chi era Pellegrino Artusi? Pellegrino nasce a Forlimpopoli in Romagna nel 1820. Il padre, un droghiere, era un fervente mazziniano e lo fece studiare e laurearsi in lettere a Bologna. Scappato dalla natia Romagna a causa del trauma seguito a un'irruzione del passator Cortese, il famoso bandito dell'epoca che tanto cortese quella volta non fu, visto che rapinò tutto il paese stuprando e razziando anche a casa Artusi, si trasferì in Toscana, dove si sentiva più sicuro. Era il 1851 e siamo in pieno Risorgimento. Passò da Livorno Pellegrino e poi si trasferì definitivamente a Firenze. Qui iniziò la sua avventura letteraria, pubblicando due saggi su Foscolo e Giusti, un bel insuccesso. A Firenze mise su un banco di sete e tele. No, non fu un banchiere, come si è sempre detto. È vero, gli piacevano i soldi, forse era anche un po' tirchio, ma il suo era un banco di stoffe in via Calzaioli. Pellegrino è un ometto contento, con tanti amici che gli vogliono bene. Paolo Mantegazza, Renato Fucini, Olindo Guerrini. È un uomo generoso, filantropo. Pellegrini è anche un epicureo, moderno però. È uno che ricerca il piacere, che vuole godere, combattere la tristezza della vita. È alla ricerca della felicità e la trova, beato lui, tra i fornelli. Ha 60 anni. Appassionato di culinaria e zittellone, decide di applicarsi con criteri scientifici alla materia, alla cucina. Come in un'officina, lui sta sempre a scucinare, sfianca i domestici fino a che non raggiunge la perfezione del piatto. Lo rifà fare da capo anche 5 o 6 volte finché non è contento e spesse volte butta via ogni cosa. Tutto nella sua cucina di casa, assistito dalla cuoca Marietta e dal cameriere Francesco. Racconta Marietta. Il libro lo cominciò quasi per scherzo. Poi vide che gli veniva bene e vi si appassionò. Scriveva sempre. Si alzava la mattina alle 8 e si metteva a tavolino fino all'ora del pranzo. Poi riprendeva a scrivere per qualche ora. Ed era un continuo alternarsi tra lo studio e la cucina, la penna e le pentole. Artusi raccolse così appunti, idee, aneddoti e riflessioni, stilò un ricettario e dopo aver ricercato senza successo un editore, nel 1891 lo pubblicò a proprie spese e cominciò anche a venderlo per corrispondenza. Fu un successo già alla prima edizione. Parentesi. Il 1891, l'anno in cui venne pubblicata per la prima volta La scienza in cucina, fu un anno di gran fermento. Pascoli, suo conterraneo, pubblica Merice, il Papa licenzia l'enciclica Rerum Novarum, nasce il Partito Socialista, si festeggia per la prima volta il 1° maggio. Esce anche il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde. Mi sa che Pellegrino non ha mai letto Wilde, ma a questo punto tocca dare l'ultima pennellata al ritratto dell'uomo Artusi. Ricapitolando, gli piace comandare in cucina, gli piace mangiare e bere, per lui la tavola è un'epifania, gli piacciono le donne, senza l'aiuto delle quali, riconosce lui stesso, non avrebbe scritto il ricettario. Non si è mai sposato, però. È anche un po' vanesio. Lui, coi suoi baffoni, i basettoni, gli abiti già demodé, l'andamento negligé, era un dandy, insomma. Un signorino, anche un po' snob. Moderato, detestava gli estremismi. Preoccupato per la disonestà della vita pubblica, di già, perplesso per la politica finanziaria del governo, con tutte le risorse finanziarie esaurite, un monte di carta e le tasse divenute insopportabili. Ma queste parole si sono belle risentite. Comunque, torniamo a bomba. Artusi inizia quindi un fitto carteggio coi suoi lettori e le sue lettrici, instaurando quasi un meccanismo interattivo. Il ricettario diviene così un'opera collettiva. Dalle iniziali 475 ricette si arriva 20 anni dopo all'ultima edizione del 1901, riveduta e corretta via via con arricchimenti, aggiustamenti e rifiniture, alla bellezza di 790 ricette. È un successo senza precedenti. Un bestseller, si direbbe oggi, con 1.200.000 copie vendute nelle 13 edizioni curate dall'Artusi stesso. Il suo delizioso ricettario diventa un vero e proprio spartiacque nella cultura gastronomica italiana. In questo libro, I segreti della grande arte ebbero in lui un felice volgarizzatore. Pellegrino trovò la maniera e la lingua giusta, anzi la creò. Qualcuno sostiene che la scienza in cucina, eccetera, eccetera, ha fatto di più per l'unità d'Italia che i Promessi Sposi del Manzoni. Per forza! Mica tutti leggono, però tutti mangiano. E Artusi ha sommato le due attività. Per lui prima si legge e poi si mangia. Il ricettario diviene così ben presto una delle bibbie popolari del nostro popolo, al pari di Pinocchio e del Libro Cuore. È un libro scritto per le donne, caso isolato, e diviene anche uno dei doni di nozze più gettonati. Piero Camporesi, il grande studioso troppo presto scomparso, sosteneva che la scienza in cucina, oltre ad essere quel delizioso ricettario che tutti, almeno di nome, conoscono, punto fermo della tradizione culinaria italiana e perfetto manuale di alimentazione saporita e insieme equilibrata, svolse anche, in modo discreto, sotterraneo e impalpabile, il civilissimo compito di unire e amalgamare in cucina l'eterogenea cozzaglia delle genti che solo formalmente si dichiarano italiane. Quindi all'Artusi, secondo me, va il merito di aver dato dignità a quel mosaico di tradizioni regionali, riconoscendogli il valore di tradizione gastronomica italiana. Ma Artusi non si limita a raccogliere e rielaborare tutto quello che il suo pubblico gli comunica. Altra parentesi, va ricordato, tanto per essere precisi, che questo successo editoriale è stato tutto costruito e sostenuto dall'Artusi stesso e dalle Regie Poste, a cui il nostro affidava la consegna dei libri venduti solo per corrispondenza. Chiusa parentesi. Quindi, poche allora le regole artusiane, che guarda caso sono tornate di moda ai giorni nostri. Per Massimo Montanari, che è tra i più grandi conoscitori di Artusi, il massimo della modernità pare oggi coincidere col recupero di modi e ritmi antichi. I sapori dell'orto e dei prodotti freschi, la variazione del cibo al ritmo delle stagioni, il rispetto delle diversità e delle varianti, il desiderio di coniugare piacere e salute, tecnologia e manualità, tutto in una dimensione umanistica. Poche sono le regole. Il rispetto appunto degli ingredienti naturali, della qualità dei prodotti, la semplicità e la passione nell'avvicinarsi alla cucina, l'attenzione, la precisione, la pazienza e la voglia di sperimentare. È buffo che l'Artusi, infine, metta in guardia i lettori di diffidare dei libri di cucina e di stare alla larga, cioè, da tutti quei soloni intenti a far credere che la loro arte sia tutta genio e perfezione. Però anche tra i cuochi da baldacchino, come Artusi amava definire i cuochi dei grandi ristoranti, oggi in tanti hanno sposato queste battaglie del nostro romagnolo. Quello che è cambiato dalla sua epoca è l'importanza che viene data oggi alla gastronomia. Artusi era avanti, c'è poco da dire. Aveva capito e previsto tutto, cioè che di cucina e di cuochi si sarebbe parlato parecchio. Con le tendenze del secolo, questa secondo me è la voce di Artusi, al materialismo e ai godimenti della vita verrà un giorno che saranno maggiormente ricercati e letti gli scritti di cucina. Oh, tutto vero, oggi i cuochi sono le nuove star, i nuovi miti, vendono tanti libri, ma mai quanto Pellegrino, e imperversano in TV. Insomma, l'Artusi era un mago. Allora, uno che l'Artusi lo conosce bene e che nella cucina italiana ha detto e continua a dire la sua è Fulvio Pierangelini, il miglior cuoco del mondo, come l'ha definito Le Figaro. E io lo incontro in cucina all'Hotel de Russie a Roma. Non c'è tempo a farla? Sì, sì, assolutamente. Okay. Anzi, vanno messe a tre quarti di cottura, perché se no evaporano le spezie. Perfetto. Curcuma e cumino, poi sì. C'è il coriandolo? Sì, ma frulliamo al catre con coriandolo, alla fine, basilico, coriandolo e basilico. Esatto, coriandolo, basilico e pomodoro di sale. Però è bello quel profumo, eh? Che profumo ci metti dentro? Ma vorrei fare una storia che raccontasse l'Oriente e il Mediterraneo, però dalla parte del Mediterraneo, quindi ci sono, c'è curcuma, c'è coriandolo, c'è cumino, rase lanut, boccioli di rosa. Boccioli di rosa. Sì, e poi ci sono, e poi però finiamo con i pomodori secchi, con il basilico, finiamo con le erbe, con le nostre erbe, quindi è un ricordo lontano di tutte queste emozioni. Sai che l'Artusi le tirava sempre con i suoi uovi, anzi li menava proprio? Che bravo, un genio! Se lo sapevo! Gli dava le ripassate pazzesche, c'è nell'autobiografia. Ripassate ne sono certo, picchiarli è un regalo che gli fai, troppo facile. Queste sono le crepe, ma è una roba fiorentina. Certo, ma infatti è una crespella, c'è l'accento circonflesso. Comunque in cucina si parlava francese, la lingua dei cuochi era il francese. E quello contro cui si batteva il nostro Artusi, no? Che diceva che non ci si capiva nulla, e quando lui va a proporre il suo libro gli dicono: beh, ma sa, l'ha scritto lei, non è nessuno, l'avesse scritto Donei, tanto tanto. E lui disse: se l'avesse scritto Donei non ci capireste nulla, perché sarebbe con quel gergo francioso. Invece lui scrive francese. Il primo libro in, beh, è stato in italiano. È stato il libro dell'Unità d'Italia, evidentemente. Però a me piaceva, io studiavo, volevo diventare ambasciatore, quindi la lingua dei diplomatici era il francese, in cucina era il francese, tutti i ruoli in cucina sono rimasti ancora con i nomi francesi, commis, chef de rang, chef de partie. Anche chef stesso, scusa. Chef stesso che noi abbiamo poi trasformato, vuol dire semplicemente capo. Noi abbiamo anche chef, ma in realtà è chef de cuisine. Che poi c'è lo chef de cave, cioè i francesi chef è solamente un capo. Comunque io sono un cuoco, non sono un chef. No. Chi è chef? Che differenza c'è tra un chef? Ma sai, ci tengono molto i cuochi a farsi chiamare chef. Però è anche vero che in cucina ci deve essere una persona che decide tutto. Come su una barca. Sulla barca si dice après Dieu le capitaine, e in cucina après Dieu le chef, perché è uno che deve dare ordini precisi. Poi si gioca un po', ci si gongola quando si dice oui chef, però è bellissimo nelle brigate quando lo chef chiama la comanda, infatti anche questa è una traduzione strana da commande francese, il chef chiama la comanda, sentire tutti i cuochi che per far capire che hanno capito cosa sta succedendo urlano uno chef, è bellissimo, è quasi emozionante. Non è un gioco di potere, non è un gioco di, è semplicemente questo mondo, ma capisci, noi siamo 18, 15 ore al giorno davanti ai fuochi, io non ho più né caldo né freddo, non ho più niente, facciamo un lavoro che se non fosse una folle passione sarebbe un lavoro troppo duro. E quindi gira, se stai attaccando le lenticchie, gira. No, vabbè. Se non fosse una passione, un delirio, non si potrebbe fare. E quindi tutti noi giochiamo a cuoco, in realtà giochiamo a cuoco. Quando un cuoco non sa giocare, io mi dispero, perché dico, ma perché devi fare questo lavoro che è così difficile? Tu devi sapere accarezzare i pomodori, tu devi capirti, devi innamorare di un... al mercato. Se non ti innamori al mercato, non... che ci fai? E se poi non lo rispetti, in cucina ci vuole il rispetto. Se tu non rispetti il prodotto, degli ospiti mi interessa molto meno. Io adoro accarezzare una patata, poi l'ospite avrà i frutti di questo mio innamoramento. Sì. Però vedi, ecco, il fatto della utilizzare i buoni prodotti e la passione, l'Artusi insomma lo sottolinea proprio nella sua prefazione. Sì, che, assolutamente. Ma te sei cuoco da baldacchino, come dice lui? Che vuol dire? Come dice nella prefazione, dice se non si dice non importa nascere con una ora vado a memoria sì. Non importa nascere con una casseruola in capo se non si, a meno che non si voglia diventare cuoco da baldacchino, cioè di quelli proprio, cioè, un po' come saresti te, voi siete cuochi da baldacchino. Ah, io sono un cuoco da baldacchino, grazie. Ma non è un'offesa, anzi. Io non cucino più, però questo profumo assomigliava molto al mio. È più facile con le spezie perché ci sono meno sensibilità da toccare. La sensibilità arriva poi alla fine quando assembleranno con le erbe. Le erbe sono più difficili, le spezie sono, vanno usate o con parsimonia oppure con grande spregiudicatezza. Devono cuocere poco, gli hai detto, vero? Mettile alla non fine. Non devono cuocere molto, cioè devono cuocere prima se vuoi. Le devi ravvivare prima in una padella a secco, quasi tostare, come lo zafferano nel risotto. Il zafferano nel risotto va messo a tre quarti cottura, oltre la metà della cottura, altrimenti diventa amaro. E poi le erbe alla fine che devono dare queste emozioni. Il timing è più importante, non è solo cosa si mette, ma quando si mette cosa che è decisivo in cucina. Perché uno spaghetto al pomodoro tutti ci mettono più o meno l'olio, l'aglio, il basilico, il pomodoro, e poi ce ne sono di tristi e di meravigliosi. Perché il timing, quando tu decidi, quando tu capisci che l'ingrediente ti darà tutta la sua forza, tutte le sue emozioni, quello è il momento in cui tu devi, è lui che te lo dice, se lo senti, se lo sai sentire. Secondo te si nasce? Ma no, la sensibilità certo si detiene per un perdono, questo è un dono che tu ricevi e poi, però più è grande il talento e più lo devi coltivare, più fatica fai, questo è vero. La manovalanza dici prevede poi piatti. Non ci sono manovali, ci sono coglioni e bravi. Io non cucino per mestiere, io cucino per urgenza, per necessità, è una impossibilità di non farlo. L'Artusi c'era arrivato alla cucina dopo aver in pratica tentato la strada del letterato, invece poi è andata male, ha scritto un paio di libri, se li è tenuti nel cassetto. E invece per un caso poi ha già da vecchio ha tirato fuori questa passione. Perché era goloso? Te sei goloso? Io no. Beh, adesso se voglio fare ancora una volta lo scemo dico che ho un rapporto intellettuale con il cibo. Lo guardi e basta? C'è un'affinità, c'è una storia. Poi posso mangiare anche delle porcherie, infatti sono grasso perché non mangio la mia cucina. Ma sono goloso, ci sono due o tre cose alle quali non resisto. Tipo? Delle polpette o un risotto. Sono un italiano del sud abbastanza tipico, non resisto davanti a un risotto, non resisto davanti a una polpetta. Nell'Artusi io racconto la storia delle triglie livornese, che poi hanno un procedimento classico tipo quello delle polpette, cioè si friggono prima e si passano poi nel pomodoro. Beh, questo oggi è improponibile perché diventa veramente troppo pesante e poi non ha una logica perché tu cuoci un olio già fritto, invece l'olio perché deve essere... Perché utilizza lo stesso olio in cui ci ha fritto la polpetta comunque cede dell'olio se è fritta. Certo. E quindi l'uso dei grassi è completamente diverso. Questo libro l'ho scritto 15 anni fa, 20 anni fa, quindi non me lo ricordo, però sicuramente ho detto che friggere e poi ripassare è una pratica desueta e non salutare. Ecco, lui, Pierangelini, ha scritto una prefazione e delle varianti al libro di Pellegrino Artusi in un'edizione di qualche anno fa. Ecco, te dici le triglie alla livornese, no? Guarda e c'hai la tua variante. Cosa dice? Consiglio di togliere il sedano. I pomodori devono rigorosamente cuocere poco, perché invece lui mette un battutino di aglio, prezzemolo e un pezzo di sedano. Mi sembra sentire la pesciaiola di San Vincenzo, Adriana. Qualunque pesce vendesse, dice, signora, ma come lo faccio? Lei fa un battutino d'aglio e prezzemolo e poi mi arrammenta. E così è l'Artusi fa i battutini di aglio e prezzemolo. E anche il sedano. Ma il sedano che è sbagliato. Cosa serve quell'erba stupida? Piuttosto devi informarti se la triglia è stata pescata, dove è stata pescata. Innanzitutto se è una triglia di sabbia o se è una triglia di scoglio. Dopodiché devi capire se è stata pescata, dove Io sapevo la mangianza, quindi io ai miei pescatori chiedevo: l'hai pescata a Levante e l'hai pescata a Ponente? Se la pescavano a Levante, sapevo che potevano aver mangiato delle erbe che danno questo odore che volgarmente chiamiamo di acido fenico. Quindi l'aprivo, toglievo l'interiora, anche se la triglia è come la beccaccia, ogni volta che si muove espelle, quindi ha gli intestini sempre puliti, però poteva avere questo odore. Se invece era pescata dall'altra parte, io la cuocevo intera in questo cartoccio naturale meraviglioso, non l'aprivo nemmeno, l'intestino era pulito. Poi una volta cotta la triglia, cotta dentro le sue squame che esasperava i suoi profumi, poi prendevo il fegato, lo toglievo, lo schiacciavo con un po' di olio, un po' di erbe e condivo le triglie con... E il sedano è triste, il sedano non ha senso. Il sedano è triste. Lui però, per esempio, l'Artusi che è passato da Livorno un paio d'anni quando venne via da Forlimpopoli, e infatti anche lui, vedi, dice nella ricetta 468 triglie col prosciutto, lui fa, l'ha mai fatta? Ah sì, ma quelle sono divertenti, le ho fatte. Le ho fatte. C'è anche scritto varianti. Io le ho fatte, quando abbiamo presentato questo libro, io ho fatto le triglie con il prosciutto. Ecco, vedi? È chiaro, ma io sono sicuro che lui lo cuoce il prosciutto, ne sono certo, leggilo. Lui dice: le triglie più grosse e saporose sono quelle di scoglio, quindi vedi, lui ti dà ragione, eh? Ma no, non è vero. No, le triglie più saporite sono quelle di sabbia, però la triglia è delicatissima. Quella di sabbia in Toscana i pescatori dicono sbuzza. Ecco. E allora è brutta da vedere perché sbuzza e poi si deteriora in tempi molto più rapidi. Lui dice: tagliate tante fettine, prendete un vassoio, spargete in fondo al medesimo qualche addossate. Sì, cuoce anche quello. Cuocete tra dei fuochi, lui cuoce il prosciutto, te invece no. Ma no, certo che non lo cuocio. E come le fai allora? Il prosciutto si ammorbidisce. Allora attenzione, 468, la ricetta si può cambiare così. Ma no, io non lo so, ero un bambino quando ho scritto questo affare, però il prosciutto si mette dopo, una volta che la triglia è cotta, e sarà solamente il calore della triglia che... Lo salti per 20 secondi in padella, te. Ma ero un pazzo. 20 secondi è una follia, adesso va scaldato solamente con il calore residuo della triglia. Della triglia. Quindi facciamo la variante alla variante. Facciamo la variante alla variante. Però vedi, lui viveva in un momento in cui non c'era l'elettricità, non c'aveva certo il frigorifero, però diverse ricette di pesce ce ne dà tante lui. Ma lui ha preso le ricette della tradizione, sai che Livorno è stata deportata completamente per 4 volte nella sua storia. Comunque venivano deportati al 100% e importati lì delle persone che si volevano. Era una galera a cielo aperto. Ecco, non lo sapevo. Queste ricette qui sono ricette del momento del ebraico, quando furono portati gli ebrei lì. Ho capito. Sia il cacciucco che le triglie livornese sono di derivazione culturale ebraica. Ecco, noi per esempio faccio ancora il baccalà alla livornese in quel modo lì. Beh, il livornese è diventato qualunque cosa fatta aglio, con il pomodoro. E pomodoro. E marrammenta. Lui fa anche lo stoccafisso, Beh, il baccalà, ma l'Italia è una nazione... Fondata sul baccalà. Fondata sulla terra. Le spalle erano sempre rivolte al mare. Ci sono più ricette di carne che di pesce, forza, sia in Liguria sia in... perché il pesce poi si pescava a remi, si pescavano le acciughe, le sardine. In Toscana erano tutti napoletani e siciliani che venivano a fare la stagione, tutti pescatori della Toscana, quasi nessuno è nato in Toscana, parlo di 500 anni fa. Però Dio, si metteva tutto sotto sale anche. Io ricordo, insomma, le ricette della mia nonna del Casentino, c'erano le acciughe, c'era il baccalà. Allora il pesce lo dovevi comprare. Quello c'era. Il pesce lo dovevi comprare, quindi era appannaggio solamente delle persone ricche. Esatto. E vicine al mercato. Vicine al mercato e che potessero usufruire in tempi brevi. Ma tutte le altre cose, c'era la mezzadria. I mezzadri avevano il 50% del prodotto e quindi... non avevano i soldi, riuscivano a mangiare. Infatti il degrado del vino italiano e dell'olio italiano è dovuto proprio alla mezzadria. Se loro raccoglievano le olive a fine ottobre, da un quintale di olive avevano 10 litri d'olio. 5 al padrone, 5 loro, non era sufficiente. Le raccoglievano a dicembre, facevano 22 certo. litri d'olio, 11 al padrone, 7 per loro, 4 le vendevano. E con quei soldi potevano comprare. Sai qual è la ricetta più comune, che tu l'hai studiata e lo sai bene, sia in Toscana, il coniglio? Certo. Sai perché? No. Perché il coniglio non faceva parte della mezzadria, il coniglio non lo dividevano con il padrone. Non doveva andare al padrone, certo. E per il resto sì, il maiale era a metà. E poi cosa facevano? Non esiste un contadino che abbia mai mangiato un prosciutto. Infatti ancora i contadini, e che io adoro, mangiano la spalla. È vero. E il prosciutto lo vendevano. Buona, secondo me anche più buono. Beh sì, ma se tu pensi, vedi un contadino che mangia una fetta di spalla, poi la mette su un pezzo di pane e con il coltello che hanno sempre in tasca tagliava un tocchetto lì, ti fa venire una fame e ti ricorda la vita bella. E poi il pane. Perché non ci sono ricette di pasta in Toscana? Perché c'è l'acqua cotta, la ribollita, la pappa al pomodoro, la panzanella? Perché la pasta bisognava comprarla. Le uova ce n'erano poche. Il pane si faceva sempre. E se avanzava non si poteva buttare via. E quindi sono nate queste ricette meravigliose. Però, insomma, è chiaro, lui scrive questo libro in un momento in cui sapeva leggere e scrivere il 2% della popolazione. Quindi era evidentemente per una borghesia. Certo, era un libro per borghesi che fossero in grado di leggere. Però poi è stato importantissimo, perché poi chi ha imparato a leggere è riuscito a imparare l'italiano attraverso questo libro, e quindi questo è decisivo. Però vedi, anche lui all'inizio, per esempio, mette una specie di vocabolario, lo chiama spiegazione di voci, che essendo del volgare toscano non tutti intenderebbero. Alla fine del 1800 il fumetto cotoletta, costoletta. No, lui lo traduce in toscano, perché costoletta dice braciola. Braciola con la costola, giustamente. La costoletta, come la chiami? Braciola, se tu lo dici a chiunque abiti a un chilometro dal confine della Toscana, non capisci. Mi dai una braciolina morbida. Però vedi, lunetta o mezzaluna, lui scrive che cos'è? Arnese di ferro tagliente dalla parte esteriore ad uso cucina. Bene, matterello. Lo staccio è impossibile da sapere. È di crine nero, sai perché? Con cosa lo faceva? E poi dice doppio sottile fil di ferro. E c'è una differenza abissale, capisci? Perché se è di crine, crine di cavallo. È meraviglioso e passa. Se è di metallo, ossida quello che tu ci metti sopra. E un prodotto non si deve ossidare. Io ho cercato di rifarlo, il crine di cavallo per una vita. E quando ho fatto la ricetta, quando davo la ricetta della passatina, che non potevo non dare, era talmente elementare che non potevo dire bugie, dicevo di passarla nello staccio di crine di cavallo. E quindi nessuno ce l'aveva. Ecco perché non mi viene buono, ecco, la sua. Perché non ho il crine di cavallo. Capito. E poi scienze in cucina, vabbè. Lui viveva in un momento, diciamo, sì, lui era positivista. Sì, era il momento della scienza. Io parlerei di amore in cucina, di rispetto in cucina, di affetto, di emozione, di sensibilità. Però ancora oggi, dopo 150 anni, è ancora la scienza che la fa da padrona, perché è più facile. Perché la scienza è tecnica pura, le emozioni non si insegnano. Io l'ho ridotta all'essenziale, ho ridotto la mia cucina veramente a una sintesi assoluta, che però è più rischiosa e più faticosa. Servono ingredienti perfetti, tecniche perfette, timing assoluto. Quest'altro tipo di ricette, insomma, puoi sbagliare. Se su uno stoccafisso sbagli di 5 minuti, non se ne accorge nessuno. Se su un mio gambero sbagli di 3 secondi, il piatto diventa immangiabile. Nessuno aveva codificato la cucina italiana, non l'abbiamo fatto ancora, e quindi non c'era una scuola. Quasi mai c'era un passaggio. Forse Bergese è stato il primo a passare da una casa nobile a un ristorante, perché i cuochi delle navi, i cuochi dei re, alla fine cucinavano solo per loro, non hanno mai volgarizzato la loro cucina. C'erano i cuochi dei Grand Hotel, i cuochi dei transatlantici, i cuochi delle famiglie borghesi. E raramente ci si poteva permettere poi nelle case di avere quel tipo di ingrediente. Questo è anche un altro motivo per cui la nostra cucina comunque è popolare, popolana e meravigliosa. Com'è dunque che nella scala dei sensi i due più necessari alla vita e alla sua trasmissione sono reputati più vili? Perché quel che soddisfa gli altri sensi, pittura, musica, eccetera, si dice arte, si ritiene cosa nobile, ed ignobile invece quel che soddisfa il gusto? Perché chi gode vedendo un bel quadro, sentendo una bella sinfonia, è reputato superiore a chi gode mangiando un'eccellente vivanda? Ci sono dunque tali ineguaglianze anche tra i due sensi che chi lavora una camicia e chi non lavora ne ha due? Ah, questo... Questo ti piace a te? Beh, questo mi piace, questo... Sai, quando dicono tu sei un artista, io mi schernisco un po' e non so cosa voglia dire, però... Sai, quando mi fermano per strada e parlano dei miei piatti che non esistono più, perché il mio ristorante non c'è più, mi parlano delle emozioni, mi parlano di cose successe 15-20 anni fa, e quindi vuol dire che anche la cucina lascia delle tracce importanti nello spirito e non solo una roba che si risolve in un paio di giorni. Io sono un cuoco che cucina. Certo, ho aiutato i cuochi ad uscire dalla porta principale. I cuochi prima della mia generazione uscivano sudati dalla porta di servizio. Sono uno dei primi cuochi che ha... Abbiamo rovinato la sala e adesso ci stiamo pentendo di questo. Il nostro ego era stato così devastante che volevamo che fosse tutto nostro. Però era anche un'esigenza estetica. E adesso... Ma noi siamo degli attori che siamo due volte al giorno sul palcoscenico. Gli attori fanno solamente una domenica, fanno due rappresentazioni. Noi due volte al giorno, tutti i giorni. C'hanno anche loro il giorno di chiusura lunedì, un po' come sì. Quasi tutti i ristoranti. Infatti siamo tutti fidanzati con le parrucchiere. Arrivederci ragazzi. E allora? L'Artusi è un testo vivo e vegeto. Ascoltiamolo dalla voce di Paolo Poli, grande attore. Interprete migliore non potevo trovare per dar voce al nostro Pellegrino, ma usiamolo, prendiamolo alla lettera però, tuffiamoci in cucina e scopriremo che funziona ancora, per davvero. Quindi, buon ascolto e buon appetito a tutti.